Trieste è un paesino abbastanza tranquillo, si vive discretamente, insomma, ecco. Sì. E cosa pensa dei giovani? I giovani sembrano un po' penalizzati qua in questi paesi, ma molto anche, perché non offre niente per i giovani. Purtroppo si lamentano tanti dei giovani. E secondo lei i giovani cosa pensano degli adulti? Oddio, non lo saprei. Ma dipende poi anche dai giovani, come la vedono sugli adulti, né? Alcuni, boh,